1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:22 minuti, buongiorno, ben ritrovati, eccoci cari ascoltatori a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di uno degli aspetti della politica legati alle ultime amministrative, cioè la domanda che si pongono in molti è: l'effetto Beppe Grillo è già finito? Si sta sgonfiando già il Movimento 5 Stelle dopo che 3 mesi fa aveva conquistato un terzo dei voti. Che ne pensate? 800 24 00 24, questo sarà il numero per intervenire in diretta. Con noi ci sarà il professor Paolo Becchi, che è ideologo ed è anche parte del Movimento 5 Stelle. Con noi ci sarà anche Alessandro Sallusti, direttore del giornale, magari per parlare anche della crisi di un altro partito che è il Popolo della Libertà. Insomma, partiamo da queste polemiche, il Movimento 5 Stelle, per capire cosa succede lì all'interno. Questo più avanti, ora andiamo a leggere i giornali. È giovedì 13 giugno, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre sullo sviluppo. Il titolo di apertura: 1 miliardo dai fondi UE per assunzioni e social card. Così anche il Corriere della Sera: 1 miliardo per il lavoro ai giovani. Per Repubblica invece IVA, la rivolta dei commercianti. Il Messaggero: debiti della pubblica amministrazione, 30 miliardi da luglio. Questo è il titolo. Il Giornale: IVA su, Letta a casa. L'Unità: senza lavoro l'Italia muore. La Stampa: Letta, ogni sforzo sul lavoro, inevitabile aumento dell'IVA. Mentre Avvenire: lavoro per salvarci. Libero: vendiamo la RAI, esempio greco da seguire. Per la verità lì non l'hanno venduta, l'hanno proprio chiusa, però pare che nasca una new company tra 3 mesi. Mentre Il Fatto Quotidiano, una notizia che viene lanciata così in esclusiva: Berlusconi chiese ai servizi, potete uccidere Gheddafi? Un'autorevole fonte della sicurezza racconta Il Fatto: durante la crisi libica il premier voleva sapere dagli 007 se era possibile eliminare il dittatore di Tripoli. Io però voglio iniziare con che cosa? Beh, col solito appello: mani sul volante, cari ascoltatori, se state guidando, tazzine del caffè bene bollenti da appoggiare sui tavoli, perché altrimenti succedono cose di cui non vogliamo poi la responsabilità. Racconta il Corriere della Sera, in un articolo di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, di quei 1679 consiglieri abusivi in Sicilia. Perché? Perché la regione, in virtù dello statuto speciale, ignora e taglia i seggi comunali decisi a livello nazionale. Agli enti più piccoli dovrebbero essere eletti in 12 anziché 6, cioè il contrario, scusate, 6 anziché 12, ma è così. In Sicilia fanno le cose a modo loro. Perché? Perché c'è ovviamente l'autonomia regionale. Non ce l'aveva fatta nemmeno la Santa Inquisizione, raccontano Rizzo e Stella. Poteva farlo forse un qualunque governo italiano? Che cosa? Riuscire nell'impresa di tagliare in Sicilia posti e benefici, fossero anche quelli di qualche consigliere comunale. E allora nessuno in Sicilia si è fatto impressionare da una legge nazionale sulla sforbiciata dei consiglieri comunali, ed ecco dunque subito una scialuppa di salvataggio per 834 poltroncine. Il conto l'ha fatto Antonio Leo sul Quotidiano di Sicilia, ricordando quanto era accaduto in occasione delle amministrative del 2012. Per capire tutto bisogna fare un passo indietro, quando il Parlamento approvò una legge finanziaria che tagliò del 20% il numero dei consiglieri comunali, ha ridotto le circoscrizioni, ha eliminato i difensori civici, alcune forme consortili. Vi ricordate, insomma, di questa legge? Ebbene, la risposta siciliana è stata in una circolare firmata il 13 gennaio 2011 dall'assessore di allora Caterina Chinnici sulla applicabilità agli enti locali della Sicilia delle norme statali in materia. E l'applicabilità è molto semplice, non si applica. Gli enti locali continueranno ad applicare la normativa vigente nella regione siciliana. Punto. E quindi la normativa nazionale in Sicilia non vale, non c'è il ponte, non arriva, c'è l'autonomia. Cadono quindi nel vuoto tutti questi tentativi e ecco che ci sono 1679 consiglieri che non dovevano essere eletti ma sono stati rieletti. Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo li trovate a pagina 13 del Corriere della Sera con tutte le poltrone in più. I seggi inutili in più in Sicilia in totale sono in realtà 834 secondo la legge nazionale, ma lì è la Sicilia, è un regno a parte. Oh, non scollate le mani dal volante se state guidando, perché sono partiti i saggi. Io per la verità quando ho letto questo titolo, come prima dicevo alle 6.30 su Repubblica, partono i saggi, ho detto, oh, e dove vanno? No, niente, partono, nel senso che è iniziato il primo incontro dei 35 saggi più i 7 scribi, ricordiamo anche che devono mettere appunto per iscritto quello che i 35 saggi partoriranno, ma non è finita. Cari ascoltatori, non è finita, ogni secondo che passa succede qualcosa perché mi si allarga in qualche modo la congregazione. In questo caso potremmo dire che saremo coinvolti tutti. Voi pensate che possano bastare 35 saggi? No. Voi pensate che possano bastare 35 saggi e 7 scribi? No. Adesso arriva, udite udite, care ascoltatrici e cari ascoltatori, nel giro di 10 giorni, la più grande consultazione del genere sul web mai fatta in Europa, che verrà effettuata in 3 fasi, sono parole del ministro Quagliariello, credo, virgolettate sul Corriere della Sera, pagina 6. 2 fasi aperte di facilissimo accesso alle quali potranno partecipare tutti i cittadini e una chiusa indirizzata all'Accademia, agli universitari e agli studi professionali. Sì, questo è Quagliariello. Ho ripreso il modello di consultazione web già utilizzato da Brunetta per le semplificazioni, da Profumo e da Barca. Insomma, avete capito? Non bastano i saggi, non bastano gli scribi, ci sarà la più grande consultazione tra i cittadini. Cosa volete per le riforme? Cosa volete cambiare? Serve un Parlamento? Basta un Parlamento? No. Basta una Commissione? No. Bastano 35 saggi? No. Bastano 7 scribi? No. Basta la comitato dei 40? Di 40 parlamentari che sarà insediato a autunno? No. Ci vuole anche la consultazione, anzi la più grande consultazione mai fatta in Europa del genere tra i cittadini. Partirà tra 10 giorni, consultazione pubblica sul web. Oh, i saggi, attenzione, si sono riuniti. Ieri c'è stata la prima riunione e udite udite, la prima proposta che hanno fatto, si sono messi d'accordo dopo tutta una riunione durata un intero giorno, si riuniranno ogni lunedì. Per l'intera giornata hanno deciso e hanno capito questo. Scrive Il Messaggero, scrive l'Unità, scrivono tutti i giornali. Ci vogliono meno parlamentari. Questa è la prima conclusione alla quale sono arrivati i 35 saggi. Ci vogliono meno parlamentari. Ma effettivamente è una cosa che non si era mai udita e audita negli ultimi 15 anni più o meno. Ci vogliono meno parlamentari. La seconda proposta è la fiducia dovrà essere fatta solo, dovrà essere data solo da una Camera e non da 2 Camere per snellire le procedure. C'è da dire che questa ci vogliono meno parlamentari, effettivamente adesso a pensarci mi sembra di averla già sentita, ma ci penserò un attimo adesso in pubblicità e meteo. 24 mattino. Ci siamo, le 7.37 minuti, eccoci. Allora, il lavoro è sempre la preoccupazione per moltissimi italiani e sul lavoro si concentra il governo nelle prossime manovre, in quello che è il decreto del dire per ora. Allora, che cosa bolle in pentola? L'idea è questa: dirottare 1 miliardo dai fondi europei che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, destinarli appunto a incentivare l'occupazione giovanile. Occupazione, 1 miliardo dai fondi europei. Questo è il titolo a pagina 3 del Sole 24 Ore. L'apertura del Sole, Marco Mobili racconta: il governo prepara 2 decreti e un disegno di legge. Lavoro in corso, insomma, sul decreto del fare. Tutte le volte che lo leggerò pensate al dolore come degli aculei che mi trafiggono, ma lo devo leggere sui giornali, ormai ribattezzato così. Lavoro in corso sul decreto del fare, sulle semplificazioni con cui il governo punta da subito a sostenere crescita, occupazione, economia, snellire il fisco, gli adempimenti burocratici. L'idea è quello, l'obiettivo dichiarato di Palazzo Chigi, scrive Mobili. Resta quello di portare al prossimo Consiglio dei Ministri di sabato, ma forse addirittura anticipato a domani sera, venerdì sera, il provvedimento d'urgenza su sviluppo e un nutrito pacchetto di deregulation da presentare alle Camere come disegno di legge. Quindi ci sarà poi tutto l'iter di approvazione alle Camere. Tanto che nel tardo pomeriggio ieri il Premier Letta, il sottosegretario alla Presidenza Patroni Griffi, il Ministro dell'Economia Sacco Manni si sono confrontati per selezionare le misure da inserire nei tre provvedimenti in arrivo sabato. L'idea è quella di dirottare, per esempio, un primo dato certo sulle coperture, arriva dal Ministro della Coesione Territoriale Trigilia, che ha chiarito che dalla complessiva riprogrammazione per 4,1 miliardi di fondi europei arriverà 1 miliardo per sostenere l'occupazione giovanile e contrastare la povertà nel mezzogiorno. Dunque questa cifra è 1 miliardo. Per la verità non fa cifre, ma fa un'intervista al Messaggero il ministro del welfare Enrico Giovannini, intervistato a pagina 5 da Giusy Franzese. Per la disoccupazione pronto un intervento shock, così è il senso dell'intervista. Per la verità non fa cifre, lui stesso dice una quantificazione in questo momento non è certa, ci sono ancora incontri tecnici in corso, posso però dire che non stiamo parlando di qualcosa di irrilevante, sarà un pacchetto in grado di dare uno shock positivo, è esattamente quello che abbiamo intenzione di fare. Ripeto, niente cifre, ma annuncia un intervento shock per la disoccupazione il ministro Giovannini. C'è da dire che invece ieri quando il ministro Zanonato si è presentato davanti ai commercianti, no, della Confcommercio, l'assemblea del 2013, l'avete sentito anche il GR24 quando ha detto io vorrei bloccare l'aumento dell'IVA, ma insomma non ce la faccio, non faccio promesse. E sono partiti i fischi, le contestazioni. C'è da dire però che, attenzione cari ascoltatori, è da leggere, sono alcuni articoli che raccontano una verità diversa, cioè queste sono le dichiarazioni ufficiali, o meglio, la dichiarazione ufficiale è non faccio promessa, che non vuol dire l'IVA aumenta sicuramente, ci sono ancora dei margini. Questa, leggere almeno 3 articoli in retroscena, il primo del Corriere della Sera, fa sapere a pagina 3 Roberto Bagnoli che Alfano è al lavoro per trovare le risorse, non, per la verità non ci sono dettagli in più. I dettagli invece sono sia sul Secolo XIX sia sul Messaggero. Allora, il Secolo XIX, a pagina 3, racconta di un piano Fassina-Brunetta, Michele Lombardi. Il piano sarebbe questo: aumentare di 13-15 miliardi i pagamenti arretrati alle imprese, incassare così circa 2 miliardi di IVA in più nel 2013 e bloccare l'aumento dell'imposta prevista per luglio. È questa una delle ipotesi su cui sta lavorando il governo per stoppare a fine giugno con un decreto il rincaro dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22%. La proposta, caldeggiata dagli uomini del PD al Tesoro, in testa c'è il vice ministro Fassina, condivisa anche dal capogruppo PDL alla Camera Brunetta, dovrà essere vagliata dai tecnici di Via Settembre, ma soprattutto dovrà ottenere l'ok del titolare dell'economia Sacco Manni, che è riluttante a bloccare l'aumento senza coperture certe. Il sentiero ovviamente è molto stretto, ma questa è un'ipotesi in campo. L'altra ipotesi, che sarebbe politicamente, avrebbe dei risvolti anche non indifferenti, la racconta Alberto Gentili sul Messaggero a pagina 3. Secondo il Messaggero, Enrico Letta avrebbe un piano per scongiurare l'aumento dell'IVA, che è questo: io blocco l'aumento dell'IVA, ma l'IMU non sarà cancellata. Apriti cielo, ecco il retroscena. Enrico Letta non ha ancora dato la brutta notizia a Angelino Alfano, ne parleremo a luglio, ma per poter rinviare il previsto aumento dell'IVA il Premier sta pensando di non cancellare del tutto l'IMU sulla prima casa, non per cattiveria, dicono a Palazzo Chigi, ma perché la coperta è corta e se tiri fuori 2 miliardi per rinviare lo scatto dell'IVA poi non ne hai altri 4 per annullare l'IMU. Questo, visto che il PDL, il centrodestra, ha sempre detto l'IMU va cancellato, punto, questo tema non si tocca più, entro il 31 agosto va fatta la riforma, altrimenti cade tutto, digerirebbe questa cosa? Cioè, noi vi blocchiamo l'aumento IVA, ma dovete sacrificarvi e spiegare ai vostri elettori il fatto che l'IMU non verrà cancellata del tutto. Questa è l'altra via che stanno percorrendo al governo secondo il Messaggero. Certo, a uno legge Valentina Conte a pagina 3 di Repubblica e legge che le tasse arrivano fino al 74% del 3% del reddito, di pressione fiscale che affonda le piccole imprese. Ci sono dati che raccontano di come servano 254 giorni per pagare queste tasse. Una media al 2012 che è arrivata al 66,27%, una percentuale 66,27% che uccide botteghe italiane, calzolai, erboristi, sarti, fabbri, corniciai, falegnami. A Napoli e Bologna è peggio che altrove. A Napoli si arriva al 74,16% di reddito d'impresa. Così guida classifica dei tartassati. La seconda, Bologna, al 73,29%, ma ha un rialzo negli ultimi 12 mesi di quasi 10 punti. Nessuna delle grandi città scende sotto il 61,18%, toccato dalla fortunata Trieste. Fortunata tra virgolette, cioè si sta bene a Trieste perché si paga solo il 61,18% di tasse. In questa situazione forse arriva anche l'aumento dell'IVA. In bocca al lupo, cari italiani. Intanto si sentono ancora le solite proposte che girano. Sentite Libero, Giuliano Zulin, pagina 4. Individuati dal demanio 350 edifici da vendere. Ma tutte le volte si sentono queste cose. Infatti Libero lo scrive. Sono gli stessi sbandierati da Monti ad agosto 2012. Vendendoli si guadagnerebbe subito 56 miliardi. Ma non vengono venduti. Quindi vengono detti così. C'è una corrente di pensiero che pensa non debbano essere venduti, perché dico, perché il patrimonio pubblico dello Stato dovrebbe essere svenduto per fare cassa? Perché chiaramente non si potrebbe vendere a prezzo pieno poi con la crisi dell'immobiliare, quindi non va buttato via, non va venduto a privati sotto il prezzo di mercato. E va bene, non facciamo niente, però evitiamo anche sempre di fare ogni sei mesi il titolo: individuati gli edifici da vendere, vendendoli si guadagnerebbe 56 miliardi. Libero invece si concentra anche sulla RAI, prende spunto da quello che è successo in Grecia, dove hanno chiuso nottetempo la TV di Stato, 2800 persone a casa, dicendo rinascerà tra tre mesi, ma sarà privata. Ah, tra l'altro, aperta parentesi, sapete quanto si paga di canone in RAI, la RAI greca, la TV pubblica? 50 euro l'anno circa, 4,5 euro al mese, 50 euro l'anno, per carità non è la cifra che sistemerebbe tutto, però insomma ecco, questo è il paragone. E Libero cosa fa? Facciamo come in Grecia, cediamo la RAI ai privati. Questa, anche questa, mi sembra di averla sentita negli ultimi 25 anni. Cedere la RAI ai privati. Chissà, mediterò su questa come i saggi durante il traffico. 7:47 minuti, la politica invece è tutta concentrata sul tema che affronteremo alle 8:15, cioè la domanda che faremo è questa: ma davvero il Movimento 5 Stelle nel giro di tre mesi, secondo voi, si è sgonfiato come un soufflé uscito male? La polemica è con la senatrice Gambaro che dice, rinfocola le polemiche: potrei denunciare Grillo se continua con le offese, mi chieda scusa. Evidentemente è una che non ce la fa più a star dentro il movimento. Lo staff parla di compravendita, le accuse, lo ha fatto per i soldi, insomma il clima è tesissimo. E Beppe Grillo che fa? Beppe Grillo racconta Repubblica, con Tommaso Ciriaco in prima pagina e poi continua a pagina 7, che intanto ha telefonato a una riunione del Movimento 5 Stelle e ha preso il telefono e ha detto così: ragazzi, mi sono rotto, mi viene voglia di mollare, alcuni erano niente, sono entrati in Parlamento e ora mi attaccano. Questo è lo sfogo amaro, non si aspettava la rivolta interna, una cosa incredibile, l'ha definita Beppe Grillo. E vedete che è quello che dico anch'io da mesi, però se lo dico io sul profilo Twitter, Alino Milan mi subissano, mi mandano insulti, soprattutto molti grillini. Cioè, senza Beppe Grillo il 99% dei parlamentari del Movimento 5 Stelle erano nulla, cioè persone che nessuno aveva mai visto neanche nel volto, pochissime, quindi sono miracolati di Beppe Grillo, e lui stesso lo dice: alcuni erano niente, ora mi attaccano. E poi cosa fa Beppe Grillo? Se ne va davvero, se ne va in Australia, dove tra l'altro vive uno dei suoi figli, e racconta il Corriere della Sera, riprende, e anche il Secolo XIX fa una tournée per i teatri. L'aveva detto varie volte: voglio tornare a fare gli show, voglio tornare a fare il comico. Il leader torna showman, tournée in Australia, pagina 8 e 9 del Corriere, partirà tra qualche giorno, farà un nuovo tour, una macchina da palcoscenico, lo farà in Australia dove vive uno dei suoi 5 figli, approderà lì tra pochi giorni per una tournée, la prima dopo l'opera teatrale Beppe Grillo is Back del 2010. Problemi anche per il PDL, cambiare il partito, come cambiare il partito, cosa fare, cosa non fare. Secondo Repubblica, il retroscena più interessante riguardo al PDL di oggi: il Cavaliere avrebbe scelto l'anti Renzi. Vabbè che anche di questo avrebbe, se ne sono sentiti tanti. Chi sarà mai? Secondo Repubblica, il da poco candidato, l'ultimo candidato al municipio di Roma, anche al comune di Roma, Alfio Marchini. Secondo, anche se Alfio Marchini per alcuni è più di sinistra, per Berlusconi, almeno secondo Repubblica, l'anti Renzi può essere Marchini. Per la verità molti gli dicono: sei tu che devi scendere in campo, e Berlusconi è tentato proprio da questo, tornare a fare il segretario del nuovo partito. Potrei fare io il segretario. Il PD invece, il PD nasce e si consolida la fronda anti-Renzi, così almeno raccontano i giornali. Nasce il correntone anti-Renzi, Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, pagina 11, è un documento dei bersaniani che puntano a dire no a personalismi e primarie da ripensare. Attenzione, udite, udite, la battuta del giorno è attribuita a Pierluigi Bersani. Maria Teresa Meli la racconta sul Corriere della Sera. Bersani, di fronte allo scalpitare di Renzi, avrebbe detto così. Ma insomma, cosa vuole fare Renzi? Il premier? Lo abbiamo già, Enrico Letta. Vuole fare il segretario? E che pensa di fare? Di iscrivere Briatore e gente così? Questa è la battuta di Bersani e infatti diventa il titolo. Matteo leader, così si iscrive Briatore. Ovviamente Renzi replica: hanno paura. E insomma, taratatatà, la solita manfrina. Tra l'altro Renzi oggi viene attaccato dal Fatto Quotidiano su alcuni dati. Giampiero Calapà e Sara Frangini raccontano: Renzi va sempre in TV ma non in consiglio. Insomma, viene definito assenteista dal Fatto Quotidiano a pagina 5. È uno dei sindaci più assenteisti nei consigli comunali. E in più, secondo il Fatto Quotidiano, alcuni ritardi nella costruzione della tranvia faranno perdere pochi giorni a Firenze 36,6 milioni dell'Unione Europea. Renzi va sempre in TV ma non in consiglio e perde 36 milioni dell'Unione Europea. Questo è il titolo del Fatto a pagina 5. Renzi guida la classifica dei sindaci assenteisti d'Italia. Non rispetta i tempi di Bruxelles per i finanziamenti, ma chiede ai fiorentini: dove volete i fontanelli? Insomma, un'accusa a Renzi su come gestirebbe o non gestirebbe per il troppo assenteismo la città di Firenze. Interessanti molti articoli, altri segnalo qualcuno dai giornali. Il primo proviene dalle vicende vaticane. Massimo Franco, che è una persona sempre molto bene informata su quello che succede in Vaticano, sul Corriere della Sera racconta l'accelerazione di Papa Francesco, che vuole cambiare con una riforma radicale lo IOR entro luglio. Verso una riforma radicale dello IOR, il Papa vuole agire entro luglio, così Massimo Franco sul Corriere, pagina 19. Papa Francesco sembra deciso a intervenire sullo IOR prima dell'estate, probabilmente entro il 31 luglio. Insomma, si parla di un Papa Bergoglio convintosi nei 3 mesi di pontificato che, così com'è, lo IOR toglie alla Chiesa molto più di quanto non le dia in termini di immagine, credibilità internazionale, sospetti sul modo di operare dell'unico istituto immediatamente riferibile al Vaticano. E insomma, da settimane la Segreteria di Stato vuole cambiare i gangli del potere economico curiale. Questa storia è finita, raccontano alcune le personalità riguardante la storia del neo presidente che da solo 100 giorni è a presiedere lo IOR, vale a dire Hans von Freiberg. Insomma, lo IOR pare possa cambiare immediatamente. C'è anche molto su Ingroia, accusato dal CSM di essere un po' il puparo del procuratore capo di Palermo, Messineo. C'è tanto anche sull'incredibile esecuzione dopo un'elite in strada, incidente a Roma. sul messaggero esecuzione a Roma per una lite di viabilità. Davvero arriviamo anche a questo. Ma voglio chiudere con un campione del quale si dice sempre: ma sarà più forte di Maradona o sarà meno forte di Maradona? Lionel Messi. Ma a giudicare da quello che ha fatto col fisco, forse è come Maradona. Pare, frode da 4 milioni, neanche Messi paga le imposte. Che messa così il titolo del Corriere della Sera, dice: ma ragazzi, se può dribblare le imposte Lionel Messi, dribbliamole tutti. No, è chiaro, non è un invito, ma voglio dire, avrebbe evaso il fisco per 4 milioni di euro. Più forte o meno forte di Maradona? Come Maradona, vedete, il giornale radio.